il virus qui è arrivato molto in ritardo rispetto all'Europa ed è stato visto il rischio con un po' di sufficienza da parte generalmente della popolazione e delle autorità. Quando i primi casi sono cominciati a comparire sia in Brasile che in altri paesi dell'America Latina, si trattava sempre di casi importati, cioè di persone che si erano contagiate in Europa o latinoamericani o europei che hanno portato con sé il virus. Non c'è stata una diffusione rapida all'inizio, per cui è stato visto tutto sommato come qualcosa di poco pericoloso. Poi sappiamo com'è infido questo virus, come si propaga con anche tempistiche un po' lunghe, per cui poi sono cominciati a comparire tutti i vari casi e i paesi dell'America Latina, quasi tutti attualmente, hanno chiuso le proprie frontiere e hanno tagliato tutti i collegamenti aerei con l'Europa, in particolare tutte le repubbliche del Centro America, la Colombia, il Venezuela, il Perù, l'Ecuador, il Cile, l'Argentina, tranne il Brasile. Il Brasile è stato l'ultimo paese ad adottare misure di contenimento del virus, in realtà le sta adottando in queste ore, perché fino alla scorsa settimana, fino a venerdì sera, non c'era praticamente nessuna misura di prevenzione, non è stato orientato in nessun senso la popolazione, se non state attenti e varie, per cui con la mancanza di informazione, con l'incongruenza di una serie di misure dal punto di vista federale e degli stati, ha portato, come dire, a una situazione che adesso è probabilmente fuori controllo. 13 delle persone che hanno viaggiato nella comitiva presidenziale che è stata fino a venerdì scorso negli Stati Uniti in visita di Stato hanno contratto il coronavirus. Bolsonaro è stato sottoposto qualche giorno fa al primo test, il primo è risultato positivo al virus, il secondo è risultato negativo, poi c'è quell'altro da rifare per verificare ulteriormente, insomma non si è capito molto e come dire, l'informazione è stata un po' frammentata. Di certo c'è che il presidente ha detto: innanzitutto, se io mi contamino è una responsabilità mia, che me ne importa a voi io che cosa faccio, non è che perché sono contaminato non posso abbracciare, stringere mani e vedere le persone. Questo l'ha detto ieri ha detto anche che il coronavirus è probabilmente un'esagerazione per cercare di colpire il governo in qualche modo, danneggiando l'economia. Le chiese evangeliche stanno passando il messaggio che il coronavirus non esiste o che comunque Dio li protegge da questa malattia, per cui non bisogna preoccuparsi, per cui noi abbiamo una popolazione molto divisa, cioè tra le persone che stanno cominciando a preoccuparsi, ma sono tuttavia poche, perché per strada la vita prosegue in maniera normale. Io stesso sono sceso a fare la spesa e non c'era nessun tipo di controllo, non c'era nessun tipo di limitazione, le persone normalmente per strada, negli autobus, nelle metro, nei supermercati, nei negozi, tutti aperti. Oggi lo stato di Rio de Janeiro, dove vivo, ha fatto le prime misure restrittive serie, cioè la chiusura dei ristoranti, la chiusura delle palestre, il divieto di assembramento. Da domani per esempio il consolato italiano non riceverà mai al pubblico, la polizia federale ha chiuso l'appendimento, l'ufficio al pubblico. Tutto questo oggi, quindi molto in ritardo e con il virus già fuori controllo, completamente fuori controllo, cioè non sappiamo quanti casi ci sono, quanti sono, dove sono, chi lo ha preso, chi è in isolamento, chi è grave, non si sa nulla di tutto ciò, questo è importante da dire. Per quanto riguarda l'economia, ovviamente se non ci sono ancora state chiusure l'impatto non c'è stato, però è un tema che viene affrontato, che preoccupa? Beh sì, preoccupa molto, in realtà è anche per questo motivo che è stato preso un po' sotto gamba, un po' come dire all'olandese, come anche altri paesi d'Europa. Se l'ho detto, non possiamo chiudere tutte le attività, non possiamo chiudere come è successo in Italia di fatto, non possiamo permetterci questo perché il paese è già in difficoltà. In realtà lo scorso anno l'economia del paese è cresciuta meno di quanto avrebbe dovuto, quanto stimava il governo. Le stime per quest'anno erano molto positive, ma tutto sommato poi erano già state ridimensionate a causa dell'impatto del coronavirus in Cina. Adesso che l'impatto è doppio, le stime stanno crollando, le stime di crescita dell'economia, per cui molto probabilmente non è possibile stimare dei numeri certi, però probabilmente potrebbe non crescere il paese o addirittura andare in recessione o comunque crescere di pochissimi punti percentuali. Insomma, l'impatto sarà notevole. Anche adesso molte persone si preoccupano principalmente di questo, siamo in una società profondamente capitalista, quindi la prima cosa a cui si pensa è il denaro, per cui tutti dicono: vabbè, ho capito, ma io non posso chiudere questo, non posso farlo, poi come guadagno, questo sono anche discorsi del tutto legittimi e ovvi. L'impatto preoccupa molto. Il governo, il ministro Guedes, ieri ha presentato un pacchetto di misure che in realtà significa soltanto anticipare la tredicesima ai pensionati, piccole altre misure, cioè non sono misure economiche, sono piccoli palliativi, insomma delle aspirine contro un coronavirus che tutto sommato non si fa tanto intimidire dall'aspirina, insomma. Quindi io credo che l'agenda economica del governo fosse già particolarmente fragile, le idee sono poche, l'impatto delle prime misure dello scorso anno non sono state positivi, gli impatti non sono stati positivi, per cui non la vedo molto bene, e il coronavirus sarà ovviamente l'imputato, ma non è solo, è il solo imputato, è anche l'incapacità di rispondere all'emergenza, l'incapacità di strutturare misure economiche differenti, e questo sarà uno degli impatti più gravi, ma è quello di salute che mi preoccupa molto di più. E infatti volevo farti un'ultima domanda, perché sappiamo che, insomma, che il sistema universalistico italiano è presente non in tutto il mondo, ad esempio negli Stati Uniti non c'è. In Brasile com'è? In Brasile c'è un sistema sanitario pubblico che però è estremamente carente, è insufficiente, diciamo non è in grado di rispondere alle minime esigenze di prevenzione e di emergenza in situazioni normali. Ieri hanno pubblicato i numeri, non ci sono letti in terapia intensiva in nessun ospedale pubblico, già, cioè sono già tutti occupati prima di cominciare a eventualmente rispondere alle esigenze di quanti ne dovessero avere bisogno per il coronavirus. La maggior parte della popolazione, chi può permettersi, in realtà i più ricchi hanno dei, si chiama plano de saúde, no? È una specie di assicurazione, diciamo, che sostituisce il servizio pubblico. Tuttavia le assicurazioni hanno detto che loro non sarebbero pronte a rispondere alle esigenze di tutti quelli che venissero a contrarre il virus, sarebbero intenzionati a scaricare sul servizio pubblico l'assistenza anche dei propri stessi clienti, per cui è nata questa vicenda la settimana scorsa. Adesso pare che stiano rispondendo. Ad ogni modo, la cosa importante e fondamentale da dire in questo momento è che i medici stanno orientando i pazienti a non andare in ospedale, anche se manifestano dei lievi sintomi, di non fare esami e di rimanere in casa isolati. Sono pochi i test proprio a disposizione, i tamponi, per cui questi vengono riservati solo a situazioni estremamente gravi che già necessitano di ricovero ospedaliero, per cui noi potremo avere un numero X di pazienti che presentano dei lievi sintomi, che sono già stati contagiati e che stanno continuando a contagiare perché continuano a vivere la loro vita, ai quali i medici hanno detto di rimanere in casa e di isolarsi o di fare poche cose, ma ai quali hanno detto di non andare in ospedale, di non verificare se si tratti di coronavirus, per cui questo significa che qualsiasi numero che esca dalla sanità brasiliana, sia degli stati che della federazione a livello nazionale, non ha nessun valore. Non sappiamo a questo punto come vengono raccolti i dati. Per esempio, ieri è uscita la notizia che non tutti gli stati presenteranno al Ministero della Salute i numeri certi delle persone contagiate, ma considereranno soltanto i casi gravi. È completamente impossibile ricostruire il numero dei casi che ci sono, quanti casi ci sono, se sta avanzando la malattia, se sta avanzando il contagio, dove si trova, noi non lo sappiamo.